io mi cedo dopo per la carazza e fai ad aprirmi non lo trovare apri Cesco apri Circolo! Crocciatezza! Vi chiamerò intraprendere. eccellenza, una domanda sola. Eccellenza, il signore che della polizia l'assassino non cadde ancora in nostra mano. Il conte non proferiva un nome, neppure il nome mio. Avea qualche nemico, e lui giusto c'era. E chi? Vuoi interrogare i servi dell'altra stanza? No, restate qui. Scrivete. Così adunque, signore, va a chiedermi qui da un padiglione solitario. Saliamo, lordo di sangue giace il conte. Ave a che sarmi in pugno, a terra stava.

grandi e l'ombre che si inseguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo! L'ombre si sono riunite. L'han preso. Signora. La rivedo. Morto. Uccido. Thank you. Russia. Chiesa. A mezzanotte. E domani. Noi vedremo allora. Pietroburgo. Addio, addio. Risponde, sì, grazie. Tra un'ora